Radio 3 Scienza. Buongiorno da Radio 3 Scienza, buongiorno da Gaetano Prisciantelli al microfono e un saluto vi giunge anche dall'intera squadra della nostra trasmissione: Rossella Panarese, la curatrice, Paolo Conte in redazione, Giovanna Savignano. Vi segnalo per cominciare il numero al quale potrete inviarci i vostri commenti, le vostre domande per partecipare a un dialogo che, come tutti i giorni a quest'ora su Radio 3, riguarda la scienza. Il numero è 335-5634-296. E noi partiamo da una citazione che è spuntata nel cuore della notte su Twitter e che era firmata da un autore che è molto bravo a raccontare la scienza. Si chiama Sean Carroll ed è l'autore di un libro dal titolo Infinite forme bellissime, uscito per Codice. Un altro libro di Sean Carroll si chiama Dall'eternità ad a qui ed è uscito per Adelphi. Che cosa ha scritto questa notte Sean Carroll? Probabilmente era giorno lì dove lui scriveva. Ha scritto: le storie che la scienza racconta sono a volte sconvolgenti, a volte invece ci aiutano a dare un senso alle cose della realtà, a volte ci deliziano, a volte ci fanno arrabbiare. L'unica cosa che hanno in comune è che queste storie sono tutte vere. E allora, a proposito di storie fantastiche al tempo stesso vere, oggi parleremo di particelle e di una particella in particolare. Cominceremo dal fotone, cioè una particella che era molto particolare e ricorda un altro Carroll in questo senso, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Se la guardi si comporta in maniera diversa, se non la guardi si comporta in un'altra maniera. Tutto questo ce lo facciamo spiegare molto meglio di come io abbia fatto finora da un premio Nobel, Serge Haroche, che nel 2012 ha meritato il premio Nobel per la fisica per aver osservato, per essere riuscito in quello che in passato sembrava impossibile, osservare una particella, il fotone, in laboratorio. Io do il buongiorno anche a Rossella Panarese, che è in studio con noi e che ci aiuta a raccontare questa storia. Buongiorno Rossella. L'onore di essere la voce di uno dei due premi Nobel del 2012 per la fisica, Serge Haroche. Sono molto felice. E lo abbiamo incontrato a Palazzo Farnese a Roma, che è la sede dell'ambasciata di Francia, che ha invitato questo suo figlio eccellente qualche giorno fa a tenere una conferenza proprio su questa particella e l'importanza di questa scienza. Ma noi proviamo a raccontare la storia della particella di questo scienziato eccezionale. Noi, tanto per cominciare, Rossella, le abbiamo chiesto cosa succede quando la luce incontra la materia, perché è proprio lì che inizia la storia che raccontiamo oggi. Quand la lumière touche la matière, elle peut être soit absorbée par la matière, soit diffusée, c'est-à-dire envoyée dans d'autres directions. La luce può essere assorbita, dice Haroche, oppure parzialmente deviata verso un'altra direzione. Quest'ultimo fenomeno ci permette di vedere gli oggetti intorno a noi, di sfruttare la luce del sole e delle altre fonti di luce, e in forma più generale è che la luce è il veicolo di gran parte delle informazioni che abbiamo dal mondo esterno. La conoscenza del mondo e dell'universo deriva quasi esclusivamente dalla luce. La luce delle stelle, per esempio, ma anche quella delle profondità del cosmo. Infatti, continua Roche, quando parlo di luce, intendo sia quella visibile che quella non visibile delle onde radio che vengono dallo spazio. È sfruttando i segnali luminosi che comprendiamo il mondo intorno a noi. Fondamentalmente è l'interazione tra atomi e luce che regola le modalità in cui le informazioni si trasmettono e si trasformano. Questo, conclude Haroche, mi ha sempre appassionato. Chi regge la façon dont l'information se transmet, se transforme, e c'est ce qui m'a toujours passionné dans l'étude de l'interaction matière-lumière. E c'è uno snodo di questa storia che è particolarmente interessante, cioè il fatto che noi percepiamo la luce, grazie alla luce osserviamo, come ci ha appena spiegato il premio Nobel Serge Haroche, però finora mancava un metodo per osservare queste particelle così importanti, i fotoni, che appunto erano sempre stati ritenuti veramente impossibili da studiare, quasi per definizione impossibili da studiare. Ma la scienza va avanti grazie a persone come Serge Haroche. Sentite come ha raccontato il meccanismo che aiuta a osservare le particelle, i fotoni. Nos expériences consistent à contrôler et à observer les grains de lumière des photons. Et vous avez raison que ce sont des particules très très fragiles. très difficile à observer parce que au moins au contact avec la matière. Allora, Roche intanto dice è vero che sono difficili da osservare, riferendosi appunto ai fotoni. Il contatto con la materia spesso li distrugge, riferendosi appunto a queste particelle. A contatto con la materia il fotone viene spesso assorbito. Anche in una scatola fatta di specchi il fotone finisce per essere assorbito e in più, per sua natura, il fotone viene distrutto durante l'osservazione, perché quando giunge alla nostra retina si trasforma in un segnale nervoso o elettrico e anche le telecamere da laboratorio, quelle più sofisticate, possono distruggerlo. Per questo, dice Roche, abbiamo fatto interagire fotoni e atomi, concentrandoci sugli atomi che non sono in grado di assorbire il fotone perché sono privi dell'energia che serve per assorbire la luce. Questi atomi sono talmente leggermente perturbati dal fotone che pertanto noi misuriamo questa perturbazione. È come se il fotone lasciasse un'impronta sull'atomo. Noi andiamo a studiare l'impronta. Nell'ambito di questi esperimenti, continua Serge Haroche, il fotone è quindi come una particella di materia, qualcosa di stabile che possiamo manipolare, osservare e trasformare proprio come facciamo con la materia. Possiamo dire che con questi esperimenti si arriva a scolpire un sistema fatto di fotoni, è un po' come uno scultore scolpisce un sistema fatto di materia. Qualcosa che è permanente e che possiamo manipolare, osservare e trasformare come on le fait avec de la matière. Donc on peut dire que dans nos expériences, on sculpte un système constitué de photons, un peu comme un sculpteur sculpte un système constitué de matière. E quindi la scienza nell'esperienza di Haroche è andata oltre l'osservazione fino a fare di questa materia qualcosa che metti lì e tratti, manipoli, oltre che osservare. Però, come dicevamo prima, si è ritenuto a lungo che questo non si potesse fare. Uno scienziato ambizioso è uno scienziato che prende esattamente tutte le cose che si ritiene non si possano fare e va oltre e cerca di superare l'ostacolo. Abbiamo chiesto a Serge Haroche quando ha capito che invece era possibile superare questo ostacolo che per lui a questo punto risultava apparente. Le idee sono venute dans des discussions avec des collègues. Serge Haroche risponde che le idee gli sono venute discutendo con dei colleghi. Io, dice il premio Nobel 2012, lavoro nell'ambito di un gruppo di colleghi, alcuni dei quali sono stati prima dei miei studenti. Ci sono persone con le quali lavoro da 30 anni. Discutendo insieme, ci siamo resi conto che esistevano degli atomi che potevano servire da impronta per i fotoni e che questa idea poteva forse funzionare, almeno sul piano teorico. A quel punto, bisognava capire quali difficoltà tecniche bisognasse affrontare e ci sono voluti 20 anni per affrontare quelle difficoltà tecniche e arrivare a osservare i fotoni in quelle condizioni. Quindi le idee concettuali risalgono all'inizio degli anni 90 e gli esperimenti sono stati realizzati 15 anni dopo, a metà degli anni 2000. Sviluppati al milieu des années 2000, 15 anni dopo. 15 anni dopo la prima idea. Quindi mettersi in testa un'idea del genere per un fisico significa prepararsi a 30 anni, un percorso di 30 anni e a una distanza tra l'elaborazione della teoria e il momento in cui si inizia a sperimentare davvero, che è fatta di 15 anni. Tempi lunghissimi trascorsi ovviamente a programmare, a progettare degli esperimenti, seguendo ovviamente un metodo. Ma noi abbiamo incontrato Serge Haroche prima di una conferenza alla quale Haroche ha dato un titolo preciso, Potenza e stranezza del mondo quantistico. Siamo d'accordo, sono delle particelle perché si comportano in maniera paradossale, non sono esattamente il tipo di materia che si può studiare mettendolo lì fermo, ma bisogna trovare un espediente, come ci ha spiegato Haroche, per poter studiare, per poterla seguire, per poter osservare il suo comportamento. Quindi su questo, sulla stranezza, siamo tutti d'accordo, ma gli abbiamo chiesto dov'è la potenza del mondo quantistico. Ce que j'appelle la puissance, c'est la puissance prédictive de la théorie. E la puissance d'une théorie qui... Serge Haroche, premio Nobel 2012 per la fisica, risponde: per quanto riguarda la potenza del mondo quantistico, intendo il potere predittivo della teoria, che ci fa comprendere il mondo microscopico e ci ha aperto alle nuove tecnologie. Il laser, i computer, la risonanza magnetica, le tecniche per la realizzazione di immagini in medicina, il GPS, sono tutti strumenti potenti che ci danno potere sul mondo e questo potere ci viene dalla teoria quantistica che ci aiuta a influenzare il mondo. Per esempio, continua Roche, la capacità di maneggiare quantità di dati senza precedenti, aprire il sistema della rete che è composta da computer che funzionano grazie a tecnologie quantistiche, connessi grazie a fibre ottiche che trasportano segnali grazie ad altre tecnologie quantistiche, e tutto questo ha permesso all'insieme del mondo di comunicare e di essere connesso all'istante. È una straordinaria potenza di comunicazione e di informazione ed è per questo che dico che è una teoria potente. Potente e strana, ed è questo il paradosso, perché la maggior parte delle persone la utilizza ogni giorno e al tempo stesso pensa che sia una teoria bizzarra ed esoterica. Il considera che sia una teoria esoterica, ma ha bouleversato la loro vita. Ha sconvolto la nostra vita, ha sconvolto e rivoluzionato anche l'ascolto della radio per molte persone. Chi ci ascolta online in questo momento sta facendo affidamento, poggia sulle teorie sulle quali ha studiato e continua a studiare il premio Nobel Serge Haroche. Ma è tutto lì oppure c'è ancora qualcosa da scoprire? Su questo i fisici teorici sono sempre molto prudenti, ma la domanda gliel'abbiamo posta lo stesso. Sentiamo che cosa ha ascoltato. Che cosa ha risposto Serge Haroche? La beauté de la recherche, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on peut attendre. C'est difficile à imaginer. Il bello del fare ricerca è che non si sa. Non è facile immaginare cosa possiamo aspettarci. Si parla di computer quantistico, che è molto più potente dei computer esistenti. Si parla di nuove tecnologie di calcolo, grazie al controllo delle particelle, di simulazione della materia, di solidi e cristalli artificiali creati per osservarne il comportamento in maniera più profonda. Sono tutte applicazioni dirette delle tecnologie che studio. Più in generale, continua Serge Haroche, la comprensione profonda del mondo viene dalla meccanica quantistica e ci sono cose che non comprendiamo nell'universo, nella cosmologia, come l'origine dell'universo, l'origine dell'energia oscura o della materia oscura, che si potranno comprendere solo nell'ambito di una teoria quantistica. Generale, la comprensione profonda del mondo viene dalla meccanica quantistica e il y a encore des choses qu'on ne comprend pas dans l'univers, dans la cosmologie, l'origine de l'univers, l'origine de la matière noire ou de l'énergie noire que les observations astronomiques semble avoir découvert, tout cela ne pourra se comprendre que dans le cadre d'une théorie quantique. Donc la physique quantique a encore beaucoup de choses à nous apprendre dans le domaine des sciences naturelles. E non è finita quindi l'avventura degli scienziati, dei fisici teorici. Se pensiamo per esempio che ogni volta che parliamo del genoma, biologi che si occupano del genoma hanno ancora delle difficoltà a far entrare dentro i computer tutte le informazioni che raccolgono. A livello appunto dello studio del genoma c'è questa difficoltà oggettiva. Ancora non ci sono reti così potenti che permettano di mettere a sistema tutti questi dati. Ecco, se pensiamo a un computer superpotente che solo la ricerca nella fisica delle particelle ci potrà dare, l'ipotesi, ecco, bisogna essere prudenti, l'ipotesi è che a partire dal genoma si possa sapere molte più cose su ciascuno di noi. Quello è un collo di bottiglia della scienza e delle tecnologie molto interessante al momento. Abbiamo chiesto però a questo scienziato così importante, a questo autore di studi decisivi per la comprensione del funzionamento del mondo, che cosa fa un premio Nobel, a che punto un premio Nobel interviene nella vita di un ricercatore. Come sappiamo, il premio Nobel viene assegnato quasi sempre a sorpresa. Gli scienziati, quando vengono a sapere del premio, sono sempre molto sorpresi della notizia. Che cosa succede dopo? Che tipo di contributo questo premio può dare alla loro vita? Je crois d'abord que un aspect positif c'est que pendant une semaine de l'année tous les médias parlent de la science. Pendant la semaine où le prix Nobel est donné au début du mois d'octobre, tous les jours, tra gli aspetti positivi c'è il fatto che ogni anno per una settimana tutti i media del mondo parlano di scienza. Per una settimana ogni giorno c'è un articolo sulla fisica, la chimica, la biologia in tutto il mondo. Il premio Nobel ha visibilità e centralità uniche. Al tempo stesso per la persona che lo riceve è un fardello. Deve fare tante interviste come questa e ricevere tante sollecitazioni. Ma accanto a questo c'è il contatto con gli studenti più giovani, la possibilità di parlare con loro di scienza. conoscenza. C'est un grand fardeau parce que vous voyez que j'ai... E quindi il premio Nobel Serge Haroche spiega l'impatto e l'importanza del premio Nobel non solamente nella sua vita, poi ha aggiunto altre cose, ha aggiunto che ormai gli scienziati come lui sono così tanti che è impossibile, è difficile, quasi impossibile arrivare ad assegnare il premio a quello più bravo, quindi ci vuole un po' di fortuna, ha detto con un po' di giusta modestia il premio Nobel Serge Haroche, insomma ha detto bisogna essere anche fortunati perché siamo così tanti in questo campo che è impossibile premiare veramente quello più bravo, ma in realtà ha usato parole di grande stima nei confronti del suo collega di premio Nobel e Serge Haroche ha aggiunto che l'importanza, la scelta saggia degli ideatori del premio Nobel è stata proprio all'inizio del Novecento quella lì di scegliere di farne un premio internazionale, il che ha deluso un po' gli svedesi che invece si aspettavano un premio che premiasse i connazionali, ma nel lungo periodo ha premiato perché per una settimana ogni anno si parla su tutti i giornali del mondo solamente di scienza e l'anno scorso si è parlato appunto di fisica quantistica. E noi abbiamo presentato queste idee tra i messaggi giunti al nostro 335-56-34-296, alcuni lamentano il linguaggio molto didascalico delle cose che abbiamo detto. Altri invece apprezzano il fatto che finalmente riescono a capire e a discutere di queste cose che sembrano impossibili, bizzarre, invece sono potenti e ci riguardano tutti. E questa è Radio 3 Scienza, restate all'ascolto. Questa è Radio 3 Scienza, grazie anche a Marco Azzori che cura la parte tecnica per la puntata di oggi. Abbiamo ascoltato Andante Tranquillo, The Lady and the Dragon, dai Six Studies in English Folk Song per violoncello e pianoforte di Ralph Vaughan Williams, eseguita da Paul Watkins e Ian Brown. Radio 3 Scienza che oggi affronta un tema che appassiona molti, anzi appassiona molto alcune persone, alcuni di quelli che ci stanno scrivendo al 335-56-34-296 e c'è anche qualche commento sui social network a dimostrazione che si può anche parlare di particelle, di fisica quantistica alla radio. Buongiorno a Giovanni Amelino Camelia, fisico teorico all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato con noi. Allora, la sorprende questo interesse, questa passione verso questi studi anche da parte del pubblico di Radio 3? Io non posso essere sorpreso perché ovviamente trovo questi temi molto affascinanti, però e anche devo dire poi quando io incontro il pubblico in situazioni di divulgazione noto che c'è un crescente interesse, quindi anche da quel punto di vista non mi sorprende. Si dovrebbe fare più quello che state facendo voi oggi, forse per riscontrare ancora esiti più significativi da questo punto di vista. Ma insomma, Giovanni Amelino Camelia, il computer lo usiamo grazie a queste ricerche, l'internet, le fibre ottiche, i cavi, ecco, tutto questo funziona grazie a tutto a queste ricerche, gli smartphone che abbiamo in tasca, dobbiamo ringraziare voi che fate ricerca in queste cose. Come mai siete così percepiti ancora come lontani dal mondo reale e chiusi a scrivere formule, a riempire lavagne? Questo stereotipo come mai secondo lei resiste ancora? Ma una parte dello stereotipo ha a che fare col fatto che questo tipo di studi richiedono grande dedizione, quindi insomma non è un modo di vivere la vita un po' diverso da quello di altri ambiti professionali. E poi c'è anche appunto questa barriera di comprensione. Noi abbiamo esperienza intuitiva con un regime delle leggi della natura, quella che poi i fisici chiamano il regime classico, dove il nostro intuito si è formato e riteniamo, ad esempio rispetto a quello che diceva Roche, riteniamo una specie di diritto naturale poter stabilire dov'è una particella, tutta la sfida che ha accompagnato la vita di Roche nel localizzare e manipolare i fotoni sembra estranea alla nostra esperienza quotidiana, dove il concetto di particella è una pallina materiale e quindi si crea una barriera dovuta al fatto che le frontiere della fisica gestiscono comportamenti della natura che sembrano molto diversi da quelli che ci appaiono più intuitivi perché li incontriamo nella vita quotidiana. È tutto un risultato del fatto che la natura ha questa interessantissima capacità di comportarsi in maniera apparentemente molto diversa in regimi diversi. Quindi quando si studia un sistema microscopico noi vediamo dei comportamenti che non rassomigliano per nulla a quelli dei sistemi più macroscopici che circondano la nostra vita quotidiana. Però se potessimo guardare dentro al cellulare con la precisione che si usa nei nostri laboratori, poi invece riscontreremo che la natura ha anche quei comportamenti. Quindi una sua coerenza, mi colpisce molto l'avverbio che lei ha usato, lei ha detto apparentemente, quindi la natura ha certi livelli, cioè ha superato quello scalino che separa appunto le particelle dalla materia fisica, quella che sentiamo nelle mani, ecco, superato quello scalino sembra avere delle leggi diverse, è tutta apparenza. È tutta apparenza, perché noi oramai abbiamo la fisica teorica contemporanea, riesce anche a usare la meccanica quantistica per predire quei comportamenti di corpi macroscopici. È la stessa teoria, lo stesso sistema di leggi, che però è governato da una matematica tale che quando applicata a sistemi composti da pochissime particelle dà luogo a certi tipi di configurazioni. Quando il numero di particelle fondamentali coinvolte cresce, e anche in un granello di sabbia ce ne sono tantissime di particelle microscopiche, quelle che noi chiamiamo fondamentali, questa matematica prende un comportamento più, diciamo, meno colorito, ecco, più che ha meno varietà di comportamenti, ed è quello il regime a cui noi siamo esposti, e quindi quello è il regime che forma il nostro intuito per cosa è ragionevole e cosa non è ragionevole. Ecco, Giovanni Amelino Camelia, noi abbiamo sentito Serge Haroche parlare di questi 30 anni trascorsi per riuscire a osservare questa particella sfuggente e inafferrabile. Anche lei è nel pieno di 30 anni di un progetto simile che ci vuole raccontare in poche parole? Io sto provando a fare un nuovo record da quel punto di vista. Diciamo, la cosa più simile, i 30 anni di Haroche mi fanno ridere, e la cosa più simile è un po' la storia di Higgs che abbiamo sentito in questi mesi. Higgs negli anni 60 preparava il terreno, come ora è chiaramente conclamato, preparava il terreno negli anni 60, lui ed altri devo dire, ma in particolar modo Higgs, preparava il terreno per questi studi che ora sono il nostro oggi, diciamo. Quindi negli anni 60, 50 anni fa, Higgs preparava la frontiera scientifica di oggi, 50 anni dopo. E, diciamo, c'è sempre un gruppo di fisici teorici, ed è bene che ci sia, che prepara le future esplorazioni, alle quali altrimenti arriveremmo impreparati. e io questa è la mia scelta. È la sua scelta, ma lei, ecco, sono giorni di scelta di facoltà universitaria per molti ragazzi. Mi vuole descrivere il profilo dei ragazzi che vorrebbe vedere accanto a sé e che dovrebbero iscriversi a fisica per potersi aggiungere a questa impresa della quale lei ci sta parlando? Guardi, ci sono secondo me due profili da distinguere. Ce n'è uno, quello di chi proprio ha l'obiettivo di fare ricerca, come me e come altri, e lì ci vuole particolare talento scientifico, una dedizione rara, ma che a mio avviso si riconosce facilmente. Non credo che molti giovani con questo tipo di passione non se ne accorgano. Senz'altro sarebbe meglio se appunto le trasmissioni, anche la scuola, gli aiutasse di più a riconoscere queste passioni, ma queste non succede sempre, però forse oggi con la rete è più facile per i ragazzi capire veramente che cosa vogliono. Nel loro tempo libero esplorano, conoscono, leggono interviste come quella che stiamo facendo adesso a persone come lei. Lei ritiene che sia più facile trovare la propria vocazione oggi? Sì, io penso che comunque quando una vocazione è molto forte, anche in passato, non era tanto difficile coglierla. Credo che oggi c'è una sfida maggiore, che diciamo il mondo moderno ha bisogno di persone con talento scientifico anche nel mondo produttivo, e quello forse è un lato dove il nostro paese deve fare di più per comunicare questa necessità, perché magari ci sono giovani con talento scientifico ma che non si sentono, diciamo, quella dedizione assoluta alla scienza, e sperano magari di applicare i loro talenti nel mondo produttivo. Per quello ci sono sempre più opportunità, ma lì c'è più bisogno di una comunicazione efficace. Certo, Giovanni Emilino Cmelia, noi la ringraziamo tantissimo per le sue parole. Ormai, grazie anche ad altre trasmissioni di Radio 3, è il messaggio che più sapere significa anche più ricchezza per tutta la nazione sta passando, e noi siamo contenti di dare questo contributo. Passiamo la linea al concerto del mattino di Valentina Lo Surdo. Radio 3 Scienza torna domani alle 11:30 su Radio 3.